Ti senti molto buona e ti credi chissà chi. Quanti pesci e cani lasciami intorno a te. E beh, chi se ne accorge, dopo tutto ti sai far notar. Già, già. Cintura, gli occhi puntano tutti, dove il movimento è armonia, musica e colore. Già, yeah! Bar parti che posti, che posti, che posti, bar parti che posti, che bar. Bar parti che posti, che posti, che posti, bar parti che posti, che bar. Andi ai, andi ai, andi ai, andi ai, bar parti che posti, che bar. Bar parti che posti, che posti, che posti. Baciarti tutta, son malato, non ne posso proprio più. Col palato prosciugato, anche il toro è scatenato, vuol ballar, al suo posto non sta più. Hai raggiunto l'intenzione, tutti quanti a contemplare, yeah! Bar parti che posti, che posti, che posti. Bar parti che posti, che bar. Bar parti che posti, che posti, che posti. Bar parti che posti. Andi ai, andi ai, andi ai, andi ai, bar parti che posti, che bar. Bar parti che posti, che posti, che posti. Andi ai, che bag, bag, batti, che posti, che posti, che posti, addio, addio.